badamban kaamos na yo ab kakara bakaye Thank you. ikaw, adi gay go pero. Mohta hai piladiyo, aramida chay ikaw, adi gay go pero. Amma amma charta udalane hai sukai apune mal kai gata igata.